got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Siamo questa sera con Euglent Plagu, che è uno scrittore, ma non solo, è una persona che vive in Italia da molti anni e ha origini albanesi. Buonasera innanzitutto. Buonasera Valentina. Abbiamo letto il suo libro Oltre Confine, che è stato pubblicato qualche tempo fa dalle edizioni Bianca e Volta. È un libro che tratta della tua storia personale? Sì, è un libro che tratta la mia storia personale, ma rispecchia la storia di molte altre persone, diciamo, giovani come me, che hanno voluto e dovuto fare gli stessi miei viaggi, gli stessi miei percorsi. Tu sei partito dall'Albania parecchi anni fa, adesso ce lo racconterai, e cercando fortuna in Italia, no? In un periodo in cui l'Albania era in uno stato di grossa difficoltà dopo la dittatura di Hoxha. No? Che cosa ti è capitato quando sei arrivato qui? Il mio impatto con l'Italia è stato tragico perché come è scritto, diciamo, molto chiaramente nel libro, ho dovuto, con la costrizione di altre persone, chiedere delle elemosine al semaforo. Quindi ecco, la mia esperienza in Italia, di preciso a Milano, fu quella di chiedere l'elemosina e raccogliere più soldi possibile per dare proprio al capoccia che stava dietro le mie spalle. Run through the water, your sweet fool, to catch my hand. Cry me a river if you love me till the end. Every moon is not the same. Tonight it's red, and I'm still trapped by the river. Best of for a shade, drag by the river, lap of willows in your nails. Drag by the river, joy brings only shame. Drag. Hai raccontato nel libro Oltre Confine anche quello che passa nella testa di tutte quelle persone o di tante persone che troviamo ai semafori e chiedono l'elemosina. Tu ti sei trovato vittima di un racket. Praticamente giunsi in Italia con una promessa di lavoro, anche se ero minorenne, però venne un parente a casa mia, diciamo una sera tardi, e mi propone di andare assieme a lui in Italia perché c'era del lavoro. Quindi io mi trovai sopra questo gommone con altre persone sconosciute, tra l'altro anche tante ragazze che poi, con il senno di poi, ho scoperto che erano destinate alla prostituzione, di lavorare. Invece, una volta sbarcato in Italia, mi trovai, diciamo, un'arma puntata alla testa e l'ordine di andare a chiedere soldi al semaforo per pagare il debito che non avevo chiesto. Euglent, quanti anni avevi? Cominciai a 13 anni fino a 16 anni. Che anno era quando sei arrivato in Italia? Allora, la prima volta ufficiosamente fu nel 93-94, poi ufficialmente nel 96. La prima volta quindi senza documenti, da clandestino, sì. La seconda volta in regola. Adesso vivi da tanti anni in Italia e hai ottenuto anche la cittadinanza, no? Sì, dopo diversi anni, dopo un impegno nel sociale, dopo piano piano essermi anche sistemato, che diciamo mi sono creato una posizione, è arrivata anche la cosiddetta super desiderata cittadinanza italiana. Tu quando avevi 13 anni e il protagonista del tuo libro Oltre Confine, che ha più o meno la stessa età, quindi un adolescente, vivevi un paese, il paese di allora, l'Albania di allora, insomma, povera, al collasso di una dittatura, un paese disperato da cui tutti scappavano, no? Sei partito con qualcosa in tasca? No, io sono partito con un sacchetto di plastica, con diciamo un paio di pantaloni e una maglietta di ricambio, con nient'altro. I tuoi genitori sapevano quali erano le tue intenzioni, quelle di imbarcarti? Assolutamente no, tanto è vero che io scappavo di nascosto e quando tornavo qualche sculacciata me la sono anche presa, no? Quindi loro erano favorevoli che io partissi. Per te l'Italia era una specie di sogno. Dove avevi coltivato questo sogno? Attraverso cosa? Attraverso i racconti degli altri? Attraverso la televisione? L'Italia era un sogno perché mi piaceva il suono della lingua, che per me era e tuttora rimane bellissimo. Tramite la TV, tramite le persone che raccontavano, vedevo tutte le città colorate, le opere d'arte, eccetera, eccetera. Mi innamorai dell'Italia. Every moon is not the same tonight. It's full and I'm still pulled by the river. Best of for a shame. Drag by the river, let the meadows climb my veins. Drag by the river, madness clogs the shame. Drag by the river, let me sink alone again. Tu sei arrivato in Italia così come il protagonista e sei andato a Milano, no? Per te Milano era l'Eldorado sognato. Poi cosa è successo? Sei stato vittima di una organizzazione criminale, no? Che riduceva in schiavitù e costringeva all'elemosina dei ragazzini. Sì, corretto. Milano, da una città di sogno, si trasformò in un incubo. Quindi noi chiedevamo, diciamo, l'elemosina tutto il giorno e poi per dormire si cercava il primo stazione, diciamo, il primo vagone abbandonato, la prima fabbrichetta abbandonato, qualsiasi, diciamo, posto fuori dall'occhio indiscreto. Al freddo, con la neve, ecco, una cosa mi rimase impressa era queste giornate grigie con la nebbia. Cioè Milano per me, io, diciamo, l'impatto che ho io con Milano è grigio. Every moon is not the same tonight. It's red and I'm still trapped by the river. Best of for a shade. Drag by the river, let the willows sing your names. Drag by the river, joy brings only shame. Drag. Qual è l'episodio che ti ha colpito di più di questa esperienza? Mi colpì, mi rimase impressa più che altro il periodo di Natale, quando ci costringono a chiedere l'elemosina scalzi, no? Con il freddo. E diciamo, questi sfruttatori che noi avevamo dietro alle spalle hanno capito che era un periodo d'oro, si poteva guadagnare tanti soldi, quindi per aumentare i loro profitti ci costringono a camminare tutto il giorno per le auto scalzo. Quindi in quel periodo lì arrivò una quantità di denaro enorme e arrivò anche una quantità di scarpe, abiti, tutto e di più che però io e diciamo i miei compagni diciamo di lavoro non potevamo indossare perché eravamo costretti a quel, diciamo, a quel sistema che avevano adottato. Noi ci siamo, pronti a condividere con voi anche quest'estate tante buone notizie. Parliamo di tutto, dalla Grecia di Tsipras alla campagna di De Luca. In stile si può fare, saremo in compagnia dei nostri eroi quotidiani, inventori, cervelli che non fuggono, sindaci virtuosi, contadini del terzo millennio. In pratica, aspettiamo solo voi. Si può fare l'attualità anche d'estate con Alessio Maurizi, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Give a little, take just a little. Let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Cry a little, sigh just a little. Let your cloud roll by, baby, a little, but baby, that's the glory of love. Long as there are just the two of us, have the world in its charm. Long as there are just the two of us, we hold each other's arm, baby. Now, ovviamente tutti quelli che ci ascoltano si porranno la domanda, ed è quella che ci poniamo tutti ai semafori, che ti porrai anche tu adesso, no? Quando vedi della gente chiedere la carità al semaforo, cosa fare? Ecco, questa è una domanda molto difficile che mi hanno posto molte, diciamo, persone incontrate in varie presentazioni del libro. È una domanda molto difficile perché dare si alimenta, diciamo, quello che c'è dietro. Non dare mettiamo a rischio diciamo, la persona, perché sicuramente se non raggiunge la quota prestabilita prenderà diciamo le botte. Ma io, diciamo, sposterei il problema sulla società, diciamo, chi è preposto a controllare, a guardare che queste persone non stiano in strada. Secondo me si devono impegnare un po' di più, che, diciamo, che queste persone siamo anche noi, è tutta la società civile che noi viviamo. Quindi casomai segnalare la presenza di minori, di ragazzini sulla strada che possono magari essere aiutati da qualche associazione? Sì. Tu non sei mai stato avvicinato da qualcuno che ti voleva aiutare sinceramente? Sono stato avvicinato verso la fine dell'avventura, diciamo, a Roma, un prete, che poi risultò un salesiano, si avvicinò lì al semaforo, piano piano ha conquistato la mia fiducia, anche perché noi, personalmente, ho avuto molti, diciamo, altre persone che si sono avvicinati a noi, a me, per altri interessi, quindi, dico, pedofili o altre persone che avevano altri interessi, quindi cioè, eravamo molti diffidenti. Questa persona, con calma, con la pazienza, mi ha fatto capire che era una persona per bene, quindi è stata, diciamo, la mia salvezza, che mi ha dato la possibilità poi per arrivare a giorno d'oggi a scrivere questo libro. Non so come ringraziarlo, sono grato per tutta la vita, perché è stato una delle poche persone a guardare oltre, diciamo, quell'abito e quella puzza orrenda che io emanevo stando lì al semaforo, perché erano poi tra l'altro mesi e mesi che non ci levavamo, insomma, ecco. Ti ricordi il momento in cui ti sei fidato di lui? Lo ricordo molto bene, perché lui a quell'epoca aveva una, non so se possono dire i nomi delle macchine, una Fiat Ritmo, ma proprio vecchia, brutta, e io lo guardai con questi 2000 lire fuori dal finestrino e mi disse: guarda, se vuoi lavarti, se vuoi giocare a pallone, qua vicino c'è l'oratorio. Io, quando sentì giocare a pallone, mi sono aperti gli occhi, quindi quel giocare a pallone a me ha conquistato fiducia, e quando ha detto che ci sono altre persone che frequentano, diciamo, questa struttura. People put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to, but my home is nowhere without you. There is nowhere like the ocean to breathe, and the world is wonderful as it is. Now I might try to settle down. Si sono presi cura di te, perché tu a quel punto eri ancora minorenne. Sì, si sono presi cura di me con una proposta di studiare, però c'era un inghippo che io non avevo documenti, quindi per studiare dovevo ritornare in Albania e rifare tutta la documentazione. Quindi io dovevo fidarmi doppiamente di questa persona, perché avevo un po' il timore che questa persona mi ingannasse, insomma, no? E quindi doppiamente mi sono fidato di questa salesiano, di questa persona, tornai in Albania. In breve tempo abbiamo concluso tutta la documentazione che servisse per, diciamo, mettermi in regola, e da lì io mi trovai qui, diciamo, a Mestre, a Venezia, a studiare dei salesiani. Esperto di sicurezza militare, è questo, no, che fai? Sì, diciamo, il lavoro principale è quello di assicurare, diciamo, le persone VIP, proteggere, eccetera, eccetera. Diciamo, come secondario, anche addestramento, diciamo, tecniche operative, corsi specifici per le forze dell'ordine, diciamo, soprattutto in Albania questo. Come mai ti sei specializzato in questo settore? Era una cosa che hai sempre seguito? Come ti è venuta questa passione? Ecco, questa è una domanda molto interessante. Io credo che è stata una cosa inconscia, ricordando quei momenti al semaforo, quei momenti tristi e bui, quando io avevo bisogno di essere difeso o di difendermi, ma non riuscivo. E credo che è stata questa la scintilla che mi ha fatto intraprendere questa strada, perché io fino a poco prima che io conoscessi il Krav Maga non avevo l'idea delle arti marziali, eccetera, eccetera. E quando ti sei finalmente fidato di questo prete che ti ha aiutato, non avevi paura che l'organizzazione che stava dietro l'elemosina, il sistema dell'elemosina, facesse del male a te o alla tua famiglia se ti ribellavi, se te ne andavi? Diciamo che sono stato anche un po' astuto a nell'uscirne, perché non si poteva uscire facilmente, e quindi io mi sono lasciato catturare, diciamo, dalla polizia italiana, ho fatto di tutto per essere catturato, e quindi loro mi hanno spedito, dopo la mia richiesta di essere spedito in patria, mi hanno rispedito in patria, e quindi è stata un po' questa la salvezza, perché non si poteva, ecco, lasciare la polizia. Tant'è vero che quando la polizia o le forze dell'ordine ci catturavano nei semafori, ci portavano in questi centri d'accoglienza per minorenni, e noi lì avevamo istruzioni ben precise che dovevamo andare via e raggiungere nuovamente il semaforo dove ci aspettavano. E in questi centri per minorenni era facile scappare da questi centri? Sì, molto facile, perché non erano sorvegliati, non erano controllati, quindi... Sono 3.707 i minori scomparsi l'anno scorso, tantissimi. Minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia. Anche il presidente del Senato, Grasso, di recente ha lanciato l'allarme per queste sparizioni, dicendo che possono finire vittime di un commercio di organi. Io dico anche più semplicemente del racket di questo tipo, no? Tu cosa dici, tu che ci sei passato? Questi ragazzi che scompaiono sono sicuramente utilizzati per business di qualsiasi genere, perché purtroppo l'essere umano non ha confini di fronte, diciamo, al dio denaro. Secondo te i centri d'accoglienza per minori dovrebbero vigilare di più? Secondo me questi centri d'accoglienza devono fungere da casa famiglia, ma veramente casa famiglia, no? Devono essere all'interno delle persone che siano prima di tutti dei padri e dei educatori, non persone che sono lì, che hanno un lavoro, eccetera, eccetera. E quindi dare una speranza, dare un qualcosa a questi ragazzi, dare l'istruzione, che è l'arma più potente che esista in questo mondo. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. queste persone hanno bisogno di affetto, questi ragazzi, questi bambini o queste, diciamo, e le ragazze hanno bisogno di affetto, perché le cose materiali non possono colmare ciò che hanno lasciato. Dobbiamo ricordarci che queste persone, diciamo, questi ragazzi, queste che prendono un barcone e arrivano da questa parte, lasciano una famiglia, lasciano dell'affetto, lasciano qualcosa che non si può comprare con del denaro o con delle cose materiali. Quando hai deciso di scrivere questo libro e perché? Alla fine i tuoi interessi vanno verso altre cose, no? Il tuo lavoro è di altro tipo. Perché hai deciso di scrivere un libro? Credo che mi sono sentito in dovere di scrivere anche per dar voce a molte persone che non possono dire. Ho imparato a convivere, diciamo, con le mie paure, a convivere con i miei dolori, con le mie, diciamo, con quello che è stato, quindi ho fatto in modo che questa, diciamo, l'esperienza io lo trasformassi in qualcosa di utile per le persone. Per fare un esempio, quando io insegno l'autodifesa, chi più di me, meglio di me, può conoscere cosa può capitare per strada, quindi io, oltre alla tecnica, ho, diciamo, questo valore aggiunto che è l'esperienza di vivere in strada. Quindi, però, una cosa da dire è che io dormo con un occhio aperto, diciamo, un occhio chiuso, cioè nel senso vigile tuttora. Now I might try to settle down on some beach in Malibu, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. Cosa ne pensi del tuo paese oggi? Il mio paese oggi è cambiato moltissimo, soprattutto a livello di infrastrutture. Vorrei tanto che cambiasse, diciamo, anche a livello di mentalità, cioè che diventasse più europeo. Mi spiego, ci sono molti giovani in Albania che dalla mattina alla sera sono a questo benedetto bar, caffè, con un caffè tutto il giorno, e quindi sono senza prospettive. Faccio un appello a questi governi, che adesso non so chi, se sono verdi, rossi o gialli, di cominciare a pensare a questi giovani, a sfruttare questi giovani, perché l'Albania può dare molto di più rispetto a quello che è attualmente. Immaginiamo che sia l'Italia di 50 anni fa, quindi c'è possibilità di crescita. In un paese dove c'è possibilità di crescita c'è anche la possibilità di investimento, può fare molte molte cose interessanti in Albania. Beh, deve essere una bella soddisfazione tornare, partito da su un gommone la prima volta da emigrante, tornare con il tuo successo. Sì, è una grandissima soddisfazione, soprattutto perché, diciamo, le persone in cui io vado a collaborare, a istruire, e riconoscono questo sacrificio, e diciamo è un doppio traguardo, ecco. Grazie a Auglent Placu per essere stato con noi questa sera, scrittore di questo bel libro Oltre Confine, che consiglio a tutti voi di leggere, edizione Bianca e Volta, e per capire un po' di più proprio dei pensieri, delle sensazioni, dei drammi che passano attraverso le persone che arrivano in una situazione di povertà come è arrivato lui in Italia, e che poi, come lui, si creano la loro vita qui. Adesso Auglent è italiano e gli auguriamo buona fortuna per il suo futuro. Grazie Auglent. Grazie. L'appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory.